Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Milano-Napoli, scontro al vetriolo tra i candidati sindaco, la Moratti a Radio 24, i fischi non per me ma per il governo, Calderoli annuncia, prima del voto ci sarà una sorpresa. Napolitano, appello per il lavoro, vanno tutelati i diritti dei più deboli. Grazie Italia, il segretario NATO a Roma per riferire delle operazioni in Libia, affondate nella notte le navi di Gheddafi. Applausi per Sorrentino a Cannes, la storia antinazista candidata alla Palma d'Oro dopo la gaffe di Lars von Trier. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Mancano 7 giorni ormai al termine della campagna elettorale per i ballottaggi. Dopo i commenti e l'analisi del voto, tornano a parlare i candidati ed è sfida accesa. È stato scontro in TV questa mattina tra De Magistris e Lettieri per Napoli e scambio di battute a distanza tra Moratti e Pisapia a Milano. Apriamo allora così il nostro giornale andando nelle città dove si attende il voto. Da Milano parlano a Radio 24 Letizia Moratti e Giuliano Pisapia. I fischi non erano per me, erano per il governo, ingiusti, ma perché poi erano, credo, anche per una serie di modifiche che il governo ha fatto, non tagliando e togliendo i fondi, ma modificando l'allocazione dei fondi. I fischi non erano per me. Io sono andata lì sapendo che c'erano i fischi, ma serena e tranquilla perché per Milano, tant'è vero che mi spiace, ma come sempre poi si riportano solo i fischi e non gli applausi che comunque io ieri ho preso. C'è anche da dire che mentre c'è, come dire, una parte che forse manifesta il proprio dissenso non applaudendo, un'altra parte è normalmente quella che manifesta il proprio dissenso in maniera, diciamo, un pochino più rumorosa, però diciamo che io sono andata per parlare, per ascoltare diciamo che la manifestazione non era per Milano, tant'è vero che c'erano associazioni che venivano da tutta la Lombardia e tant'è vero che il presidente di Leda mi ha pubblicamente ringraziato per quello che in questi anni il Comune di Milano ha fatto. Questa riorganizzazione complessiva è evidentemente finalizzata a dare più diritti ai cittadini, più potere ai cittadini, ma con la responsabilità del sindaco e di chi collaborerà con lui di dare veramente tutte le possibilità non solo di ascolto ma anche di risposte ai bisogni della città complessive e soprattutto dare risposte che sono necessarie da tutti i punti di vista, sociale, economico, culturale e soprattutto programmatico per il futuro. Milano deve ritornare ad essere una città internazionale, ad essere la capitale dei diritti e la capitale del lavoro. Se non abbiamo una pubblica amministrazione che funziona, se non abbiamo un organo di garanzia che controllino quotidianamente cosa avvenga nella pubblica amministrazione e diano quella trasparenza necessaria, se non abbiamo un sindaco e degli assessori che abbiano competenze precise, si rischia quello che è successo purtroppo in questi anni, che troppi mondi importanti per Milano, troppe realtà importanti per Milano non hanno avuto né ascolto e quando hanno avuto ascolto non hanno avuto risposte. Così Letizia Moratti e Giuliano Pisapia a Milano. A Napoli, dicevamo, lo scontro è stato invece in TV, nel faccia a faccia di Sky. Hai bisogno di almeno 10 mesi per arrivare al 50% di differenziato, prima è impossibile. Nel frattempo cosa si fa? Si costruisce l'impianto di compostaggio perché se no non sappiamo dove portare l'umido. E poi si fa un accordo con un paese straniero che io ho già individuato. Quale? Non lo dico neanche sotto tortura. No. Finalmente la raccolta differenziata su tutto il territorio cittadino, porta a porta, in modo da raggiungere nei primi mesi già il 70%. No all'inceneritore, a Napoli Est, basta diossina, basta inquinamento, Napoli ha bisogno di salute, sia gli impianti di compostaggio. I rifiuti come da copione ad avvio di trasmissione, quando gli sfidanti indicano le priorità dei loro programmi. Una stretta di mano e sorrisi a far presagire un confronto sereno, in apparenza però, perché il clima si accende in poco tempo. De Magistris torna a ribadire l'alleanza scomoda tra il suo avversario e Nicola Cosentino. Quello che penso di Lettieri, comprenditore di soldi pubblici, non è un imprenditore. C'è una persona che andando a braccetto con la politica trasversale, quella che lui adesso a chiacchiere critica, ha preso contributi pubblici, ha messo in cassa integrazioni i lavoratori, ha fatto fallire le aziende e adesso si vuole presentare con quello che risana Napoli. È esattamente il contrario, è quello che insieme a Cosentino la metterà nelle braccia della camorra e farà fallire questa città. Ma cosa pensa invece Lettieri del suo avversario? De Magistris ha utilizzato i soldi pubblici per fare inchieste che non l'hanno portato da nessuna parte, ha fatto chiudere una clinica e ha portato in mezzo alla strada centinaia di posti in Basilicata, il nome non me lo ricordo. E la replica di un imperturbabile De Magistris è chiara. Da magistrato, dal quale mi sono dimesso, a quest'ora avrei guadagnato 7.000 euro, da parlamentare europeo ne prendo 6.000. L'immunità parlamentare, che è scattata solo per la manifestazione delle opinioni, perché questa è a garanzia dei diritti e doveri di parlamentare di dare voce al popolo che il popolo non ha, non ne avrò più bisogno perché fra 10 giorni sarò sindaco di Napoli, quindi mi potrai fare tutte le querele che vuoi e mi difenderò in tribunale. Lavoro, legalità, sicurezza, gli altri temi. Conclude il candidato dell'Italia dei Valori parlando ancora di una Napoli pulita anche moralmente. Lettieri scuote la testa. Anna Rita Ambrosio, Radio 24, il Sole 24 Ore. Così li avete sentiti i dibattiti nelle città. Roma, intanto, la Lega promette sorprese prima del voto. Lo ha annunciato questa mattina il ministro Calderoli e Elisabetta Fiorito. Intanto c'è da dire, Anna, che romperà il silenzio questa sera Silvio Berlusconi dopo 5 giorni di assenza dal video, ospite dei TG a lui amici, esclusi quindi la 7, TG3 e anche Sky. Il ministro leghista Roberto Calderoli annuncia poi che Bossi e Berlusconi preparano una sorpresa per Milano che farà cambiare idea ai milanesi. Secondo Calderoli il PDL ha pagato per il tradimento di Gianfranco Fini e quindi i risultati elettorali hanno un nome e un cognome. Replica immediatamente Italo Bocchino dall'Assemblea di Future Libertà. Berlusconi ha inquinato il centrodestra italiano, noi non stiamo con chi disdegna la legalità. Di parere diverso rispetto a Calderoli anche Pier Ferdinando Casini, per il quale la mancata vittoria al primo turno su Milano è una bocciatura di Berlusconi, anche se il terzo polo continua a ribadire il no agli apparentamenti. Dall'opposizione Antonio Di Pietro dell'Italia dei Valori chiede a tutti di mettersi insieme per un'alleanza alternativa al governo e dare la spallata finale, mentre il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani auspica invece che i toni della campagna elettorale non si accendano, anche perché tanto non serve. Da segnalare infine nella maggioranza la mini scissione di Noi Sud nei responsabili. Iannacone e Belcastro da una parte, di Miccichè che vuole fondare un movimento, Scotti e Sardelli dall'altro. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, per studio. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Intanto è intervenuto nuovamente il capo dello Stato, Giorgio Napolitano, ha parlato però di un altro tema questa mattina, di lavoro, questo proprio nel giorno in cui si sono incontrati CGIL, CISL e UIL, il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, e partiamo allora dal messaggio del capo dello Stato oggi più che mai, scrive Napolitano alla leader CGIL Camusso in occasione della commemorazione del giuslavorista D'Antona, 12 anni dal suo assassinio. Occorre un diritto del lavoro inclusivo ed equo, attento alla tutela dei diritti della parte più debole contrattualmente e alla riaffermazione rigorosa dei relativi doveri per salvaguardare insieme crescita economica e coesione sociale. Si conferma a tal fine l'esigenza, aggiunge il Presidente della Repubblica, di un arricchimento della progettualità delle organizzazioni sindacali e di un rafforzamento della capacità di rappresentanza unitaria del mondo del lavoro. Messaggio che arriva nel giorno della conferma delle divisioni tra CGIL, CISL e UIL sul tema delle politiche contrattuali. Questa mattina incontro delle 3 sigle sindacali con la presidente della Confindustria, Emma Marcegaglia. Su questo tema con la CGIL restiamo distanti, ha dichiarato Bonanni. Della CISL non vedo una realistica possibilità di uscita unitaria, ha commentato Angeletti. UIL, e da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Intanto sul fronte economico da registrare un boom per gli ordinativi dell'industria. A marzo hanno registrato un aumento dell'8,1% rispetto a febbraio, il dato più alto dal gennaio del 2006, un rialzo trainato dalla positiva performance soprattutto del mercato estero. Il presidente Napolitano ha incontrato intanto questa mattina a Roma il segretario generale della NATO Rasmussen. Siamo grati all'Italia per il suo contributo alla missione in Libia, così dice il capo dell'Alleanza Atlantica. A Roma, per incontrare il capo dello Stato Giorgio Napolitano e il ministro della Difesa Ignazio La Russa, il segretario generale della NATO Rasmussen ringrazia l'Italia per il suo contributo alla missione della NATO in Libia sin dall'inizio. Lo siamo ancora di più, aggiunge Rasmussen, perché consapevoli del passato coloniale di Roma. A chi rimprovera la NATO di stare andando troppo a rilento nella cattura di Gheddafi, replica invece Hillary Clinton in un'intervista alla CBS. Non sono d'accordo, dice la Clinton, che aggiunge che la pressione internazionale sul regime libico ha consentito progressi lenti ma costanti. Una pressione, ha detto la Clinton, che si è accresciuta al punto che la moglie e la figlia di Gheddafi sono fuggite verso la Tunisia negli ultimi due giorni. La NATO intanto colpisce il porto di Tripoli e comunica in nottata di aver affondato 8 navi da guerra. Per quanto riguarda la popolazione, la gente, chi può scappa e chi ce la fa arriva in Tunisia o in Italia. Un dato terribile, fornitoci dall'Alto Commissario ONU per i rifugiati, dice che da fine marzo circa 1200 persone sono morte nella traversata del Mediterraneo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi ci sarà un altro importante incontro. Si vedranno negli Stati Uniti il presidente Barack Obama e il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Sul tavolo c'è quel piano di rilancio della pace in Medio Oriente annunciato ieri dalla Casa Bianca. Obama vorrebbe due stati i cui confini devono essere quelli del 1967. Poco fa a prendere posizione è stata anche l'Unione Europea, che ha accolto con favore l'importante discorso di Barack Obama. La portavoce dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Catherine Ashton, sottolineando la visione comune tra Unione Europea e Stati Uniti. L'Europa intanto potrebbe intervenire su un'altra questione, vale a dire la Siria, dove la repressione del regime diventa sempre più dura. Il Consiglio dei Ministri degli Esteri Europei si riunirà lunedì a Bruxelles e da Bruxelles si fa sapere che ci si esaminerà anche l'ipotesi di ampliare la lista delle persone soggette a sanzioni, comprendendo appunto anche il presidente siriano Bashar al-Assad. Rischia il posto il ministro britannico dell'ambiente Chris Huhne. Il motivo: qualche tempo fa, per evitare di perdere punti sulla patente, ha scaricato la colpa sulla moglie, un vizio che a quanto pare non è solo suo. In effetti la tentazione viene anche ai più ligi, persino a tranquilli padri che, di fronte a una multa che arriva a casa, appurano che l'ha presa il figlio imprudente e gli dicono: ti sia di lezione, ma dichiariamo che guidava mamma, così tu salvi la patente che a lei invece non serve. Chi non ha famiglia o parenti ben disposti, invece, o paga 269 euro di multa aggiuntiva che permettono di nascondere il conducente, o si mette su internet. Troverà gente che gli vende i propri punti patente. 100-200 euro per una falsa dichiarazione di responsabilità. Spesso hanno licenza di guida straniera, che è quasi immune da sanzioni. D'altra parte, accade così anche all'estero. Ovunque sono proliferati controlli automatici, efficaci ma incapaci di identificare il guidatore. In Germania ci hanno messo una pezza, dando ai giudici il potere di imporre un diario di bordo a chi prende una multa e non ricorda chi guidasse. Ma a volte anche da noi chi esagera rischia. Un giovane che correva in moto davanti all'autovelox di una cittadina romagnola ha dichiarato che guidava il nonno. Ai vigili è venuta voglia di indagare e si è scoperto che l'anziano quel giorno era addirittura in ospedale. Così il nipote finirà davanti al giudice penale. Maurizio Caprino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Le notizie di oggi di GR24. Berlusconi questa sera romperà il silenzio, ospite dei TG della sera per parlare di ballottaggio. Milano-Napoli intanto è scontro al vetriolo tra i candidati sindaco. La Moratti a Radio 24, i fischi non per me ma per il governo. Napolitano appello per il lavoro, vanno tutelati i diritti per i più deboli. La francese Lagarde in pole position per la successione al Fondo Monetario, ma i cinesi premono per un loro candidato. Applausi per Sorrentino a Cannes, la storia antinazista candidata alla Palma d'Oro dopo la gaffe di Lars von Trier. E noi ripartiamo dal futuro del Fondo Monetario Internazionale. Sarà libero oggi su cauzione Dominique Strauss-Kahn, l'ex direttore generale del Fondo Monetario. Dovrà pagare $1 milione, dare un deposito di altri 5, portare un braccialetto elettronico e restare agli arresti domiciliari sotto sorveglianza. La prossima udienza sarà il 6 giugno. Intanto, nella corsa alla poltrona di direttore del Fondo c'è in pole position il ministro delle Finanze francese Christine Lagarde, ma anche i cinesi chiedono la loro parte. Cosa accadrà? Io saluto il collega del Sole 24 Ore, Alessandro Merli. Buongiorno. Buongiorno. Alessandro, una tradizione la direzione europea del Fondo Monetario. Già alle 12 con Marco Mussani, con i nostri ascoltatori, dicevamo la ministra francese è la candidata europea, una candidata in qualche modo ideale. Però quanto è concreta invece l'ipotesi che questa volta non si rispettino le tradizioni e dunque il candidato non sia europeo? ma credo che le possibilità siano abbastanza limitate, nel senso che se gli europei si coalizzano dietro il nome della Lagarde e lo propongono in tempi rapidi, è possibile che questo risolva il problema della successione a Strauss-Kahn. Giustamente gli emergenti sostengono che il mondo non è più quello del 1944, quando è cominciata questa tradizione o questa spartizione, diciamo, fra europei e Stati Uniti, per cui l'Europa, il direttore del Fondo Monetario e gli Stati Uniti, la Banca Mondiale, però credo che non sia questa la volta buona per loro. Io vorrei intanto sgombrare il campo anche dall'ipotesi che il prossimo direttore del Fondo Monetario possa essere un cinese che andrebbe incontro a un veto degli Stati Uniti e probabilmente anche del Giappone. I cinesi ieri hanno detto una cosa un po' diversa, hanno detto che il Fondo Monetario deve avere una rappresentanza nei paesi emergenti nel suo vertice, che vuol dire probabilmente un numero due forte. Questo piuttosto che chiedere direttamente un numero uno, che probabilmente in questa occasione non riusciranno ad avere. Alessandro, c'è anche una coincidenza un po' particolare: Jean-Claude Trichet che lascia la BCE, dunque un francese che lascia un posto importante, potrebbe aiutare una francese come Christine Lagarde nella corsa al Fondo Monetario, sei d'accordo? Ma diciamo che la Francia non è che abbia il monopolio di queste posizioni importanti internazionali, però è vero che i francesi ogni volta sono abili nell'avere sempre un candidato pronto. In questo caso poi c'è anche il vantaggio aggiuntivo che Lagarde è donna, e anche per le circostanze in cui sono maturate le dimissioni di Strauss-Kahn, questo potrebbe favorire la diplomazia francese. Questo sì, è molto molto abile nel proporre sempre un proprio candidato, il che vuol dire anche in alcuni casi, se non hanno successo, costruire un credito per la nomina successiva. Però non c'è nessuna ragione perché i francesi devono sempre avere tutte queste posizioni. Non dimentichiamo che anche il direttore generale del WTO, Pascal Lamy, è un francese. Poco tempo fa anche alla Berger, un francese. Detto questo, Lagarde resta comunque un buon candidato per l'Europa. È un ottimo candidato per l'Europa, probabilmente è anche un buon candidato per il Fondo Monetario. Io credo che se non c'è una rapida unione di intenti fra i paesi emergenti, che finora sono apparsi abbastanza divisi, è anche probabile che ce la faccia. Naturalmente la posizione chiave è quella degli Stati Uniti. Se gli Stati Uniti si dovessero schierare con gli emergenti, ovviamente cambierebbe la bilancia, la prospettiva, certo, ma al momento mi sembra un'ipotesi abbastanza improbabile. Grazie allora ad Alessandro Merli. Noi torniamo in Italia, siamo alla pagina della cronaca. Rimane in coma la bambina di 22 mesi dimenticata per 5 ore in auto dal padre a Teramo. Nella notte però i medici dicono si sono registrati lievi segni positivi, così l'ultimo bollettino medico. Domani nel Milanese sarà celebrato un matrimonio gay, a celebrarlo una sacerdote donna della chiesa vetero-cattolica, e lei è già stata minacciata. A celebrarlo sarà Maria Vittoria Longhitano, prima parroca italiana, si dice così, della chiesa vetero-cattolica, una confessione cristiana in dissidio con la chiesa di Roma. Domani a Cormano, vicino a Milano, durante la messa, la sacerdote benedirà le unioni di Letizia e Agnese e di Paolo e Carmelo. E se il loro non sarà esattamente il primo doppio matrimonio gay ufficialmente celebrato in Italia in una chiesa, sarà solo per una questione nominale, come spiega la parroca Longhitano. Si chiama benedizione dell'unione d'amore, si chiama così, che è una cosa diversa da un matrimonio, ma non diversa nella sostanza, diversa, diciamo, a livello nominale. Il senso è gettare un seme, il senso è testimoniare che l'amore di Dio non fa preferenze di persone, come dice la scrittura. La chiesa vetero-cattolica aderente all'Unione di Utrecht è nata nel 1873, dopo il Concilio Vaticano I in dissidio con Roma sull'infallibilità del pontefice e sulla sua giurisdizione universale. In Italia è una piccola realtà, con un vescovo delegato agli stessi sacramenti della Chiesa romana, e la sua successione apostolica è riconosciuta anche dal Vaticano. Ma alcune regole sono diverse e l'atteggiamento su molti temi cambia. Garibaldi anche. I sacerdoti possono sposarsi, sono ammesse le donne prete e proprio Maria Vittoria Longhitano è stata la prima in Italia. Ora questa scelta di celebrare le nozze gay in chiesa, che ha già delle conseguenze. Sul piano, per esempio, personale mio, ho ricevuto alcune minacce di morte. Io credo che siano dei pazzi, ma di solito le fanno i pazzi, le minacce di morte. Paolo Piacenza, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi il giorno del secondo film italiano in concorso è Cannes. Sentiamo com'è andata per Sorrentino. Gli applausi in sala alla fine di This Must Be the Place di Paolo Sorrentino, in concorso oggi a Cannes, non facevano presagire la possibile palma, prospettata poi soprattutto dai giornalisti stranieri in conferenza stampa. Il film di Sorrentino racconta la storia di Cheyenne, una dark rock star, interpretata da un magnifico Sean Penn. Cheyenne, depressa e ormai a riposo dalla musica, decide di andare al funerale del padre, nonostante i rapporti tra loro si siano interrotti 30 anni prima. Lì scopre che il numero tatuato sul braccio del padre era la sua matricola nel campo di concentramento di Auschwitz. Cheyenne, che pochissimo sapeva di Olocausto, decide di andare a cercare il nazista che aveva perseguitato il padre e di vendicarsi. Un film intenso, ironico, umano, con una fotografia bellissima e con un'interpretazione di Penn degna di aspirare al premio come miglior attore. Ma potrebbe essere Palma d'Oro come miglior film, anche per cercare di riequilibrare le dichiarazioni di Lars von Trier, che aveva detto di nutrire simpatia per Hitler e di detestare lo Stato di Israele. La Palma d'Oro a Sorrentino sarebbe un'ulteriore prova di distanza della kermesse dopo aver bandito il regista danese dal festival, ma aver lasciato il suo Melancolia in concorso per punire l'uomo e non l'opera, è stato detto. Cristina Battoclesi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cannes. È morto a Roma a 69 anni il giornalista Roberto Morrione, fondatore di Rai News 24. Negli ultimi anni si era dedicato all'impegno sociale al fianco di Don Ciotti con la Fondazione Libera Informazione. Sentiamo Morrione in un'intervista di qualche anno fa. Quello di costituire una sponda, un'interfaccia e un aiuto per tutti i giovani, i volontari, i ragazzi, le associazioni che nei territori cosiddetti, diciamo, occupati dalle mafie, perché di questo bisogna dire, e continuano un lavoro duro di denuncia, di analisi, di presenza sull'informazione, spesso isolati, con pochissime risorse, poca formazione professionale. C'è il nostro speciale Giro d'Italia, poi Italia in Controluce, GR24 vi aspetta come sempre alle 14 in regia Fabio Cantadori, da Anna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.